ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Durante il respiro incantato della breve vacanza che Martin si era concesso, aveva passato molte ore ad analizzarsi e di conseguenza aveva imparato molto su se stesso. Aveva scoperto di amare la bellezza più della fama e di desiderare la fama soprattutto per Ruth. Era per lei che desiderava ardentemente diventare famoso. Voleva apparire grande agli occhi del mondo, farcela, come diceva lui, perché la donna che amava potesse essere fiera di lui e potesse stimarlo. Per ciò che lo riguardava, Martin amava appassionatamente la bellezza e la gioia di servirla era per lui una ricompensa sufficiente. E più ancora della bellezza, Martin amava Ruth. Considerava l'amore la più nobile tra le cose del mondo. Era stato l'amore a cambiarlo così profondamente, a trasformarlo da un rozzo marinaio in uno studente e in un artista. E quindi, per Martin, l'amore era più nobile e più grande dell'istruzione e dell'arte. Era il più grande dei tre. Aveva già scoperto che il suo cervello era più potente di quello di Ruth, così come era più potente di quello dei fratelli e del padre di lei. Nonostante tutti i vantaggi di un'istruzione universitaria, nonostante la laurea in lettere, il potere dell'intelletto di Martin oscurava quello di lei. Un anno o poco più di studi da autodidatta gli avevano dato una padronanza dei fatti del mondo e dell'arte e della vita che Ruth non avrebbe mai potuto sperare di possedere. Martin comprendeva tutto questo, ma ciò non influiva sul suo amore per Ruth né sull'amore di lei per lui. L'amore era troppo alto e nobile, e Martin era un amante troppo leale per offuscare l'amore con delle critiche. Cosa aveva a che fare l'amore con le divergenze d'opinione tra lui e Ruth sull'arte, sul modo di vivere, sulla rivoluzione francese o sul suffragio universale? Erano solo processi mentali, mentre l'amore era oltre la ragione, era sovrarazionale. Martin non poteva sminuire l'amore. Lo adorava. L'amore abitava sulle vette delle montagne, al di sopra del basso piano della ragione. Era un'eccelsa condizione dell'esistenza, la vetta estrema della vita, qualcosa che accadeva raramente. Grazie alla scuola dei filosofi scientifici, quella che preferiva, Martin aveva imparato il significato biologico dell'amore. Proprio attraverso un ragionamento svolto seguendo i raffinati processi di quella scuola, era giunto alla conclusione che l'organismo umano raggiungeva il proprio scopo più alto nell'amore. Quindi l'amore non poteva essere oggetto di discussione, ma doveva essere accettato come la più nobile ricompensa della vita. Per tutti questi motivi, colui che amava era per Martin la più benedetta tra tutte le creature. Provava gioia nel pensare all'amante folle di Dio che si innalzava al di sopra di tutte le cose della terra, al di sopra della ricchezza e della ragione, dell'opinione pubblica e dell'applauso, che si innalzava al di sopra della vita stessa, per morire per un bacio. Martin aveva già riflettuto su molte cose e altre le scoprì più tardi. Nel frattempo viveva spartanamente e lavorava senza concedersi pause, tranne quando andava a trovare Ruth. Pagava 2 dollari e mezzo al mese per l'affitto di una piccola stanza alla sua padrona di casa, una vedova portoghese, Maria Silva, una strega dal carattere duro, ma grande lavoratrice, che in qualche modo riusciva ad allevare una numerosa nidiata di bambini. Ad intervalli regolari, Maria Silva annegava la sofferenza e la fatica della sua vita in un gallone del vino leggero e aspro che comprava per 15 centesimi dal droghiere all'angolo. All'inizio Martin detestava sia lei che la sua linguaccia, ma poi, osservandone la coraggiosa battaglia quotidiana, iniziò ad ammirarla. La piccola casa era formata solo da 4 stanze, 3 togliendo quella di Martin. Una di queste, il tinello, era rallegrata da un tappeto di poco valore, ma intristita dall'annunzio funebre e dalla fotografia di uno dei numerosi figli di Maria, morti ancora piccoli. Il tinello, che era riservato alle visite, aveva gli scuri sempre chiusi, e la scalza tribù dei Silva poteva entrare in quel luogo sacro solo nelle occasioni ufficiali. Nella seconda stanza, la cucina, dove mangiava l'intera famiglia, Maria Silva non solo cucinava, ma faceva il bucato, inamidava e stirava tutti i giorni, tranne la domenica. Infatti, la sua rendita proveniva quasi interamente dal lavare in casa il bucato per i suoi vicini più ricchi. La terza e ultima stanza era la camera da letto, minuscola come quella occupata da Martin, dove Maria Silva e i suoi 7 piccoli si ammassavano per dormire. Ogni sera Martin si meravigliava di come potessero riuscirvi. Attraverso il muro sottile che separava le 2 camere, sentiva ogni dettaglio di quel rituale. Urletti e grida, parlottii e poi i deboli suoni del sonno, come pigolii di uccelli. Maria aveva un'ulteriore fonte di denaro nelle sue mucche, e 2 che mungeva la sera e la mattina. Queste, contro le disposizioni della legge, vivevano brucando l'erba che cresceva sui lotti di terreno abbandonati o lungo i bordi delle strade pubbliche. Erano sempre accudite da 1 o più dei laceri ragazzini, il cui compito principale consisteva nell'avvistare il prima possibile eventuali guardie. Martin viveva, dormiva, studiava, scriveva e abitava in un'unica piccola stanza. Davanti all'unica finestra che dava sulla minuscola veranda dell'ingresso c'era un tavolo da cucina che serviva da scrivania, libreria e sostegno per la macchina per scrivere. Il letto, addossato al muro posteriore, occupava i 2/3 dello spazio disponibile. A fianco del tavolo si trovava uno sfarzoso cassettone, costruito per il profitto e non per l'uso, ricoperto da un sottile strato di vernice che si scrostava giorno dopo giorno. Il cassettone era incastrato in un angolo, mentre l'angolo opposto, all'altro lato del tavolo, era occupato dalla cucina, composta da un fornellino ad olio appoggiato sopra una cassa d'imballaggio che conteneva piatti ed utensili e da una mensola appesa al muro per le provviste. Completava l'arredo un secchio sul pavimento che Martin usava per rifornirsi d'acqua al lavello in cucina, poiché nella sua stanza non c'era un rubinetto. Quando, cucinando, la stanza si riempiva di vapore, la vernice si staccava dal cassettone in quantità maggiore del solito. Sopra il letto c'era la bicicletta, sollevata da un paranco fino al soffitto. Martin aveva provato a lasciarla in cantina, ma la tribù dei Silva gli aveva rapidamente fatto cambiare idea, allentandone i freni e bucandogli le gomme. Poi aveva sperimentato il piccolo portico d'ingresso finché una notte un rabbioso vento di sud-est gliel'aveva danneggiata. Allora Martin si era ritirato insieme alla bicicletta nella sua camera e l'aveva appesa al soffitto. Un piccolo armadio conteneva gli abiti di Martin e quei libri per i quali non vi era posto sopra o sotto il tavolo. Appesi su diversi fili che attraversavano la stanza, vi erano i quaderni sui quali Martin aveva preso l'abitudine di appuntarsi delle note mentre leggeva. Ne aveva prodotta una quantità tale che se non fosse ricorso a quel sistema non vi sarebbe stato posto per lui in quello spazio limitato, ma anche così la piccola camera era tanto stipata di oggetti che navigarvi attraverso era un compito tutt'altro che facile. Martin non poteva aprire la porta della stanza se non aveva chiuso prima quella dell'armadio, e viceversa. Non era possibile da nessun punto attraversare la stanza in linea retta. Per Martin risparmiare era una necessità fondamentale. Il periodo di vacanza che si era concesso aveva consumato quasi tutto il denaro guadagnato lavorando nella lavanderia, mentre i mercati dove aveva inviato le sue creazioni mercenarie erano così lontani da San Francisco che sarebbero dovute passare delle settimane prima di poter vedere qualche risultato. A esclusione delle rare volte in cui si recava a trovare Ruth o faceva un salto da sua sorella Gertrude, Martin viveva come recluso, portando a termine ogni giorno il lavoro che chiunque altro avrebbe fatto in almeno 3 giorni. Dormiva 5 ore scarse per notte e solo qualcuno dotato di una costituzione di ferro come la sua avrebbe potuto imporsi 19 ore consecutive di fatica. Non perdeva mai neppure un attimo di tempo. Sullo specchio aveva appeso liste di definizioni e di pronunce. Quando si radeva, si vestiva o si pettinava, navigava attraverso quelle liste e faceva lo stesso mentre cucinava o lavava i piatti con quelle che erano appese vicino al fornello. Nuove liste sostituivano in continuazione le precedenti. Ogni parola strana o poco familiare che Martin incontrava durante lo studio era immediatamente appuntata. Poi, quando si era accumulato un numero sufficiente di parole, lui le batteva a macchina e le appendeva al muro oppure allo specchio. Si portava le liste persino in tasca e se le rileggeva nei momenti più strani, lungo la strada o anche mentre faceva la fila dal macellaio o dal droghiere. Ma Martin andò oltre. Leggeva le biografie degli uomini di successo e si annotava i risultati che avevano raggiunto. Voleva scoprire i trucchi che avevano permesso loro di ottenere quei risultati, i trucchi della narrativa, della retorica, dello stile, le opinioni, le divergenze e gli aforismi, e li trasformava in nuove liste da studiare. Ma non voleva scimmiottare quegli uomini. Martin cercava dei principi. Stese delle liste di termini efficaci e seducenti, scegliendoli tra quelli amati da molti scrittori, finché fu in grado di dedurre da quelle liste il principio generale dello stile. Così equipaggiato, poteva guardarsi intorno da solo alla ricerca di frasi e termini efficaci, ma meno usati e personali, per poi pesarli, misurarli e giudicarli correttamente. In seguito, usando lo stesso metodo, Martin collezionò liste di frasi tratte dalla lingua parlata, frasi efficaci che mordevano come un acido e bruciavano come una fiamma, oppure frasi brillanti, frasi morbide e seducenti nel mezzo dell'arido deserto del linguaggio comune. Era sempre alla ricerca del principio che si trovava dietro e al di sotto delle cose. Martin voleva sapere com'era fatta una cosa, perché solo allora poteva farla anche lui. Non si accontentava del grazioso volto della bellezza, ma sezionava la bellezza nel suo laboratorio, la piccola stipata camera da letto dove gli odori della cucina si alternavano con le grida da manicomio della tribù dei Silva. Sezionare e studiare l'anatomia della bellezza significava per Martin avvicinarsi ancora di un passo alla possibilità di creare la bellezza. Per Martin, per la sua natura, comprendere era assolutamente necessario. Non poteva lavorare ciecamente al buio senza sapere che cosa produceva, affidando al caso e alla stella del genio il risultato e la bellezza del suo lavoro. Non sopportava il caso, voleva sapere perché e come. Il suo genio era creativo ma riflessivo, e prima di iniziare una storia o una poesia, quella storia o quella poesia dovevano essere già vive nel suo cervello. Il finale doveva già essere visibile e gli strumenti con i quali realizzarlo dovevano già appartenere alla coscienza, altrimenti il suo sforzo era destinato al fallimento. D'altro lato, però, Martin apprezzava l'azione del caso quando faceva apparire parole e frasi con lievità e facilità nel suo cervello, parole e frasi capaci di superare tutte le prove della bellezza e dell'efficacia, capaci di generare in chi le leggeva concatenazioni di significato straordinarie e, altrimenti, incomunicabili. Davanti a tale abilità del caso, Martin si inchinava e si stupiva, consapevole del fatto che quei poteri si trovavano ben oltre le capacità di consapevole creazione di qualsiasi essere umano. Non importava quanto lui sezionasse la bellezza in cerca dei principi che giacciono sotto di essa, rendendola possibile. Martin sapeva che il cuore della bellezza celava un intimo segreto, nel quale lui non era riuscito a penetrare, nel quale nessun uomo era mai penetrato. Grazie allo studio di Herbert Spencer, Martin sapeva bene che l'essere umano non può mai raggiungere in nessun campo la conoscenza ultima. Sapeva che il mistero della bellezza non è inferiore a quello della vita, anzi, è maggiore. Sapeva che le fibre della bellezza e della vita sono reciprocamente intrecciate e che anche lui stesso, non era altro che un pezzettino di quell'incomprensibile tessuto fatto di raggi di sole e polvere di stelle e meraviglia. Pieno di questi pensieri, Martin scrisse un saggio intitolato «Polvere di stelle», dove tirava le sue stoccate non ai principi della critica, ma ai principali critici. Era un articolo brillante, profondo, filosofico, deliziosamente ironico. Però fu prontamente rifiutato da tutti i giornali ai quali fu sottoposto. Ma Martin, sgravata la mente da quell'articolo, continuò serenamente lungo la sua strada. Aveva preso l'abitudine di lasciare incubare e giungere a maturazione i suoi pensieri su un argomento, per gettarsi solo allora sulla macchina per scrivere. Che poi questi articoli non venissero mai stampati aveva per lui poca importanza. Scriverli era l'atto culminante di un lungo processo mentale, significava tirare insieme i fili sparpagliati dei pensieri, era la sintesi finale dei dati che appesantivano la sua mente. Scrivere un articolo diventava lo sforzo consapevole per liberare la mente e renderla pronta ad accogliere materiali e problemi nuovi. Per certi aspetti era un'abitudine affine a quella che hanno alcuni uomini e donne che, afflitti da problemi reali o immaginari, periodicamente e irrazionalmente rompono il loro lungo e sofferto silenzio per dire la loro fino all'ultima parola. Le settimane passavano. Martin aveva finito i soldi e gli assegni degli editori erano più lontani che mai. Tutti i suoi scritti seri gli erano stati restituiti e lui li aveva già spediti a nuovi indirizzi, ma poiché neppure il suo lavoro mercenario aveva avuto una sorte migliore, la dispensa non era più benedetta da una grande varietà di alimenti. sisters don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake. Voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks. Bitter melodies turning your orbit around. Don't cry. La povertà l'aveva sorpreso con un sacco di riso già iniziato e poco più di un chilo di albicocche secche. Riso e albicocche costituirono il suo menù 3 volte al giorno per 5 giorni. Poi Martin cominciò a comprare a credito. Il droghiere portoghese, che fino ad allora lui aveva pagato in denaro sonante, lo fermò quando il debito raggiunse il magnifico totale di $3.85. «Perché vedi», disse il droghiere, «se non ti trovi un lavoro, io ci perdo i miei soldi». Martin non aveva nulla da replicare. Non c'era modo di spiegarsi. Tra i principi del commercio non ve n'era uno che consigliasse di far credito a un giovanotto grosso e forte appartenente alla classe lavoratrice, ma troppo pigro per lavorare. «Tu trovati un lavoro e io ti lascio prendere quello che vuoi», fu la promessa che il droghiere fece a Martin. «Niente lavoro, uguale a niente, gli affari sono così». E poi, per mostrargli che si trattava solo di una legge del commercio e non del pregiudizio personale, aggiunse: «Prenditi da bere e offri la casa. Siamo ancora amici, o no?» Martin bevve con la sua solita naturalezza per mostrare che era ancora amico del droghiere. Poi se ne andò a dormire senza aver mangiato. Il negozio di frutta e verdura, dove Martin aveva fatto i suoi acquisti, era diretto da un americano così poco dotato per gli affari che lasciò crescere il debito fino alla somma di $5 prima di bloccarlo. Il panettiere si fermò a $2 e il macellaio a 4. Martin sommò tutti i suoi debiti e scoprì che il mondo gli riconosceva un credito del valore di $14.85. In più, doveva ancora pagare il noleggio della macchina per scrivere. Pensava di poter contare su almeno 2 mesi di credito, circa $8. Alla fine, allo scadere di quei 2 mesi, tutto il suo credito sarebbe stato consumato. Martin spese gli ultimi soldi per acquistare un sacco di patate dal fruttivendolo. Per una settimana e per 3 volte al giorno mangiò patate, nient'altro che patate. Di tanto in tanto una cena a casa di Ruth lo aiutava a mantenersi in forze, anche se era una vera tortura doversi limitare ad una sola porzione quando la vista di tutto quel cibo scatenava la sua fame. Ogni tanto Martin, pur vergognandosi terribilmente, passava come per caso da sua sorella all'ora di pranzo e mangiava quanto più poteva. Lì osava di più che alla tavola dei Moores. Giorno dopo giorno Martin continuava a lavorare e giorno dopo giorno il postino gli riportava i manoscritti rifiutati che si accumulavano sotto il tavolo, dato che non aveva più soldi per i francobolli. Venne il giorno in cui non aveva toccato cibo per 40 ore. Non poteva sperare di cenare a casa di Ruth, perché era a San Rafael, dove si sarebbe fermata in visita per 2 settimane, e si vergognava troppo per andare da sua sorella. A completamento della sua miseria, quel pomeriggio il postino gli restituì ben 5 manoscritti. Fu allora che Martin portò il suo cappotto giù ad Oakland e poi se ne tornò privo, ma con $5 che gli tintinnavano in tasca. Diede $1 come acconto ad ognuno dei 4 negozianti e poi, tornato nella sua minuscola cucina, frisse una bistecca e delle cipolle, fece il caffè e si preparò una bella pentola di prugne secche. Dopo cena si sedette al suo tavolo scrivania e prima di mezzanotte aveva già completato un saggio intitolato «La dignità dell'usura». Lo batté a macchina e lo gettò sotto il tavolo. Non poté comprare il francobollo perché aveva speso tutti e 5 i dollari. Ben presto Martin dovette impegnare anche il suo orologio e poi la bicicletta. I soldi ottenuti gli permisero di affrancare tutti i manoscritti e rispedirli, riducendo però la somma disponibile per comprarsi da mangiare. Era deluso dal suo lavoro mercenario che nessuno sembrava interessato a comprare. Martin lo confrontava con le cose che trovava nei quotidiani, nei settimanali, nelle riviste a poco prezzo, e si convinceva che i suoi scritti erano superiori, assai superiori alla media, eppure nessuno li comprava. Un giorno Martin scoprì che la maggior parte dei quotidiani pubblicava una gran quantità di materiale cosiddetto di repertorio e scovò l'indirizzo dell'agenzia che lo forniva. Ma il materiale che inviò gli fu respinto accompagnato da una lettera prestampata, la quale lo informava che era lo staff dell'agenzia a fornire ai giornali tutto il materiale richiesto. In un importante periodico per ragazzi, Martin notò intere colonne di curiosità e di aforismi. Pensò che quella fosse un'altra possibilità, ma tutti i suoi articoletti gli vennero restituiti. Nessuno dei suoi ripetuti tentativi per farli pubblicare ebbe mai successo. Eppure, giorno dopo giorno, Martin leggeva novelle sui quotidiani e sui settimanali, centinaia e centinaia, nessuna delle quali poteva essere paragonata alle sue. Scoraggiato, giunse alla conclusione di non essere capace di giudicare il proprio lavoro, di essere ipnotizzato da quello che scriveva, di essere un pretendente condannato a illudersi da solo. L'inumana macchina editoriale scorreva senza intralci come al solito. Martin accludeva i francobolli ai suoi manoscritti, lasciava cadere il plico in una buca per le lettere e fra le 3 settimane e 1 mese dopo il postino saliva gli scalini dell'ingresso e gli riconsegnava il manoscritto. Era ormai certo che all'altra estremità del processo non vi fossero editori caldi e vivi, c'erano solo ruote, ingranaggi e coppe dell'olio, un meccanismo intelligente azionato da automi. Ogni volta che dubitava dell'esistenza degli editori, Martin cadeva preda della disperazione. Non aveva mai ricevuto un segno della loro esistenza, nemmeno da uno solo di loro. L'assenza di ogni motivazione nel rifiutare tutto ciò che scriveva gli sembrava rendere sempre più plausibile l'ipotesi che gli editori fossero dei miti costruiti e mantenuti da fattorini, tipografi e giornalisti. Le sole ore felici che Martin aveva erano quelle che passava con Ruth, ma non sempre lo erano. Quando era con lei, era afflitto dai morsi dell'irrequietezza, una tortura peggiore di quella che aveva provato in passato, quando ancora non possedeva il suo amore. Adesso che possedeva quell'amore, Martin avvertiva di essere più lontano che mai dal possedere lei. Le aveva chiesto 2 anni, ma il tempo volava e lui non riusciva a combinare nulla. Per di più era costantemente consapevole della disapprovazione di Ruth per ciò che faceva. Certo, lei non glielo diceva apertamente, ma in modo indiretto glielo lasciava capire, chiara e precisa, come se fosse espressa a parole. Non si trattava di risentimento, ma di disapprovazione. Una donna meno dolce sarebbe diventata aggressiva, ma Ruth era soltanto delusa. Delusa perché l'uomo che aveva scelto di plasmare rifiutava di essere plasmato. Fino a un certo punto quella creta si era mostrata duttile, ma poi Martin aveva cominciato a diventare sempre più testardo. Aveva rifiutato di lasciarsi modellare sull'immagine del padre di Ruth o del signor Butler. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. ad altavoce@rai.it.